Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E salve ragazzi, buonasera, noi siamo nella Ristoradio del Convento e sono in compagnia dello sposo. Sì, William. William, e l'amico? Daniele. Daniele, buonasera ragazzi. Ciao. Innanzitutto da dove venite? Da Lissone, vicino Monza. Vicino Monza, non siete i primi che sono da Monza, anche un'altra ragazza era da Monza prima. Sì, vabbè, siete compaesani quasi. Siamo in tanti. Sì, è grande Monza? Sì, abbastanza grande. E dimmi un po', quando è la data del matrimonio? 28 luglio. Ah, è proprio il mese prossimo allora. Sì. Cioè manca quasi un mese. Sì, quasi un mese preciso. Tutto pronto, sei pronto? Sì, tutto pronto. Hai deciso allora, no, ti sposi? No, cazzo, quella è la mia amica. È la tua amica, anche lei da Monza? Sì. Hai visto, te l'ho detto che c'era un'altra ragazza. E non posso mentre sto registrando, dopo vi salutate fuori, va bene? E come vi conoscete? Perché facciamo teatro insieme. Ah, cioè secondo me se vi davate l'appuntamento ci stanno facendo un selfie nel frattempo. No, infatti se vi davate l'appuntamento secondo me non vi beccavate, no, qui dentro. Bello così, anche perché Monza non è qui vicino, che dici vi siete trovati così per caso. No, no, è stata una casualità, poi non l'avevo vista per tutta la sera. Visto, te l'ho appena detto, hai visto, l'ho incontrata. E dimmi una cosa, come si chiama la sposa? Ilaria. Ilaria, Ilaria. Ilaria, lo sa cosa stai facendo stasera qua dentro? Sì, lo so, lo è so. Consapevole? Sì, lo sì, so sì. Immagino che ha festeggiato anche lei però. Sì, lei ha già festeggiato. Ah, ok, mancava solo il tuo turno. Sì. Tu sai cosa ha combinato Ilaria? Non lo sai? Sì, Ilaria aveva una specie di serie di prove da superare, da baciare degli estranei, vendere patate. Ah, però sei consapevole di quello che ha fatto, sì, Ilaria? Sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, l'importante. Ah, vedi che c'è qualcosa che non sai? Si verranno a scoprire gli altarini. Cosa sai tu adesso? No, niente, niente. Non sa niente. Vabbè, però lei non sa niente di stasera. Infatti. Infatti, ancora non però sa niente. Cosa gli avete preparato voi a lui? Niente? Siete stati bravi? Bravi, sì, no, tranquillo ragazzo. Non ti ormai hanno fatto fare nessuna sfida? Abbiamo fatto parco acquatico stamattina. Ok. Mi hanno fatto fare le cose più pericolose che c'erano. Io mi sono buttato ovviamente perché... Che fai, dici di no? No, non si dice di no agli amici. Di no, quello è il problema. Ah, quindi dovevi per forza farlo. Eh sì. Tipo qualcosa che era più paurosa che te. Ma te guarda, hanno fatto fare. C'era lo Stukaz. Cioè? Allora, a Caneva Sport c'era questo super scivolo dove altissimo, okay, ti tolgono la base da sotto all'improvviso e tu cadi nel vuoto. Mio Dio, non l'ho mai fatto, eppure ci sono andata. Infatti non tutti lo fanno perché hanno un po' di strizza. Però hai avuto coraggio, nessuno dei tuoi amici ti ha fatto compagnia? No, mi hanno fatto in compagnia in due. Non ti hanno lasciato solo, sono bravi amici. Scommetto che lui non è venuto. Lui no. Si vede dalla faccia. Ha detto questa mamma mi fa la domanda, mi chiede se sono andato io, non sono andato. Guarda, no, non sono andato. Non è ammesso che non è andato, non è ammesso. E allora, dimmi un po', stasera cosa hai notato di strano qui fuori? Perché io sono curiosa, che io allora, lì fuori ho visto qualcosa, però mi piace sentire tutto. Io questo posto non lo conoscevo, non sapevo dove stavo andando stasera. Quando ho incominciato a vedere, cioè, spose, sposi vestiti in modo strano, ho detto, ma dove cazzo mi avete portato? Ma anche immagino, perché già quando sei entrato e hai letto convento, hai detto, ma oddio, sì, dove sono, dalle suore? No, ma infatti pensavo, cioè, un ristorante chic, in realtà poi si scatena il macello. C'è il caos. Il caos assoluto. È bello così, dai. Bellissimo, bellissimo. Allora, mi sta divertendo un casino. A noi questo ci fa piacere. Poiché la serata durerà ancora un'altra oretta, una buona oretta, io vi lascio proseguire la serata. Bene, così grazie. Non vi perdete nulla, va bene? Grandissimo. Grazie ragazzi, top. È stato un piacere. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti.